tempo qui m'avete, o mio geloso cielo, il più puro palpitare dell'anima. Or vedrete, fanciulla, qual poema è la parola amor qui causa di scherno. Azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di fiove pioveva loro il sole e folgorava loro il mondo parea la terra un immane tesoro. Poeta non disprezzate il dono.